Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati per una nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo con questa canzone per introdurre la puntata di quest'oggi. Sciopero, perché ieri era anche il primo maggio e quindi buon primo maggio in ritardo, perché noi andiamo in onda i venerdì, a tutti e buon pomeriggio e bentornato anche a te Banzo. Perché cominciamo con questo brano? Si sentiva alla fine Yo-Yo Mundi cantavano, no? Perché erano appunto Yo-Yo Mundi con questa sciopero, era il 1995, un live. Però spieghiamo ai nostri ascoltatori perché mandiamo in onda questo brano. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Come sai c'è un sortilegio che mi impedisce di dire qualunque cosa se prima non entro in ogni puntata con queste parole. E il titolo, guarda, meno il camperlaia, il titolo della puntata è Amore e Memoria, e dopo aver ascoltato gli Yo-Yo Mundi forse non si capisce bene perché, ma è tutto legato al nostro graditissimo ospite di giornata, che sarà uno dei fondatori di Yo-Yo Mundi, Paolo Archetti Maestri, per parlare anche del suo primo album solista, Amorabile, uscito qualche mese fa, dopo una carriera che, insomma, se conoscete Yo-Yo Mundi sapete che non è stata affatto breve fin qui. No, sono tantissimi i loro dischi, quindi insomma parleremo innanzitutto con Paolo di questo nuovo lavoro e di questo progetto solista, ma poi insomma sentiremo, ascolteremo anche altre canzoni di Yo-Yo Mundi o legate agli Yo-Yo Mundi in questa puntata, che sono appunto, sono stati e continuano ad essere una parte importante della vita di Paolo Enrico Archetti Maestri. Questa canzone, Banzo, ha una storia particolare, telegrafico, perché poi sennò il tempo vola, ci sarebbe tanto da dire, perché è una registrazione del 95, però insomma è un progetto che nasce l'anno prima, nel 94. Sì, esatto, primo brano nato da un tentativo di sonorizzazione dell'omonimo capolavoro di Eisenstein, cioè non la corazzata Potemkin, quella che conoscono tutti, ma Sciopero appunto, realizzato, registrato per il primo album dal vivo, Bande Rumorose di Yo-Yo Mundi, qui attenzione alla nostalgia micidiale, negli studi della Fu Video Music. Ecco, se c'è all'ascolto anche qualcuno che ha solo un 10-15 anni meno di noi, probabilmente non ha memoria no. diretta di Video Music, per dire quanto siamo vecchi. E comunque questo progetto di sonorizzazione, del quale questo brano era solo un inizio, una bozza, un primo passo, sfocerà poi in un progetto completo che arriva a una sonorizzazione definitiva nel 2001, in un progetto appunto che si è esteso per anni, cresciuto in sintonia con l'emozione trasmessa dalle immagini del film e dagli ideali di lotta, speranza e rivoluzione che animano ogni suo fotogramma, per citare letteralmente le note di copertina dell'album. E noi andiamo a bombe, ci ascoltiamo subito un brano di Amorabilia di Paolo Enrico Archetti Maestri, che tra poco, dopo ascoltare questa canzone, sarà con noi. Si intitola La bimba che sognava Maradona. E poi, e se mi permetti, Steven, dimmi un po'. Rima spettacolare, ve la spoilerò, fra Iorone e Maradona. Godetevela. Ce la godiamo, eccola qui. C'è un posto sul divano del mondo che splende di luce mischiata. Una stella sta appesa ad un angelo biondo, brilla il vestito della minuscola fata. Dito che indica un buco nel cielo, nuvola di fumo tonda come un pallone. C'è il santo vestito di piume di pelo e un filo che piglia l'aquilone. Pullula nel ventre del fiume la Iorona, la bimba che sognava Maradona. Spettina le foglie, voglia di luna nuova, la bimba che sognava, sognava Maradona. Un calcio alla vita ed uno alla magia, figlio del talento incendia vulcano e onde, il canto diventa vento, il genio la follia, la folla che ti ama, il buio che nasconde, un'una nel ventre del fiume la Iorona, la bimba che sognava Maradona. Spettina le foglie, voglia di luna nuova, la bimba che sognava, sognava Maradona. Illumina la notte, santifica le stelle, i segni sulla schiena, i baci sulla pelle. Illumina la notte, volta la clessidra, i sogni che finiscono con l'ultima sfida. Ulula nel ventre del fiume la Iorona, la bimba che sognava Maradona. Spettina le foglie, soffio di vita nuova, la bimba che sognava, sognava Maradona. Bimba che sognava Maradona, questo è il titolo del primo brano che vi proponiamo del nuovo disco di Paolo Enrico Archetti Maestri, Amorabilia. E Paolo Enrico oggi ci accompagna, insomma non ha bisogno di presentazione, una carriera lunghissima, tanti anni, tanti dischi con gli Yo-Yo Mundi, tanti progetti, tante collaborazioni, insomma solo se dovessi, Paolo, ripeterle tutte, penso che finirebbe il tempo del programma. Bentornato a Zibaldone dopo tantissimi anni. Che bello, mi fa molto piacere, grazie dell'invito e mando già subito un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Eh sì, noi ti avevamo avuto ospite quando è rivenuto a suonare con gli Yo-Yo a Barcellona, parliamo della primavera del 2013, come vola il tempo, sono passati praticamente un po' più di 12 anni, adesso un mese più, mese meno. Sì, sì, che fu un'esperienza bella, molto nutriente per noi. Speriamo che si ripeta, ecco, per cui viva. Assolutamente sì, lavoriamoci. Ascolta, Amorabilia, tra l'altro una bellissima copertina e una particolarità, perché è il tuo primo album da solista, ossia, insomma, dopo tantissimi anni, lo dicevamo, con gli Yo-Yo Mondi, di collaborazioni, hai deciso di fare un disco che è uscito, un disco solo tuo, per così dire, per quanto collabori con tanti amici, tra cui molti degli Yo-Yo Mondi, che è uscito, lo voglio ricordare, alla fine di novembre dell'anno scorso. Raccontaci un po' come nasce questo Amorabilia, come mai hai voluto fare un disco tutto tuo. Allora, nasce per due motivi, anche uno, un motivo è un gioco, che vi racconto subito. Si stava pensando di fare... come faremo il nuovo disco degli Yo-Yo, ne parlavo con Andrea, Eugenio, ma forse sarebbe bello fare un disco più suonato, con dei brani più strumentali, con dei testi più brevi, e questo e quell'altro, insomma, loro mi dicevano tutte queste cose, e io cominciavo a pensare, ma allora quella canzone lì che ho scritto non va bene, no? Per cui cioè, tutta questa cucciolata di canzoni nuove che avevo pensato, così non funzionavano, dovevo modificarle troppo per il disco nuovo degli Yo-Yo, che è in preparazione, che uscirà l'anno prossimo e che sarà un disco poi fatto di intrecci, di chitarre, un po' più rock, con molta musica e molti meno racconti, ecco, che sono stati per tanti anni la nostra caratteristica, ma adesso vogliamo fare una cosa, come dicono i Monty Python, e ora qualcosa di completamente differente. No? Sì, Così dimmi. Mi avanzavano le canzoni, uno. Due, ho fatto un compleanno tondo, ho compiuto 60 anni e ho pensato mi faccio questo regalo. E così, in accordo ovviamente con i miei fratelli Yo-Yo, che come hai detto suonano tutti nel disco, tutto il collettivo c'è, e ho deciso di realizzare questo disco. Mi sono inventato una parola per dargli un titolo, mi sono messo in copertina con la mia faccia di quando avevo 8 anni, il tempo in cui ho scritto la mia prima canzone. Beh, è cominciato prestissimo, caspita, 8 anni, è un record. Forse sì, ricordo anche la canzone, devo dire... viene un po' da sorridere, perché quando la cito e qualche volta la faccio sentire a qualche amico, soprattutto quelli, diciamo, più giovani, no? E mi dicono che bello, sembra un pezzo degli anni 60, e effettivamente era 70, cioè, però va bene, cioè, non era proprio 60, ma era il 70 rotondo anche in quel caso, e si intitolava Sento sotto il ponte l'acqua fresca gorgogliare, e i miei compagni dell'epoca, delle elementari, suonavamo tutti, sognavamo di cambiare il mondo con la musica, mi prendevano in giro perché gorgogliare con la mia R era oggettivamente un termine un po' così esagerato. Un po' complesso per cominciare, no? Sì, ascolta, sì. A proposito di R, Amorabilia ha una R, ma in realtà, ecco, Amorabilia non è memorabilia, c'è qualcosa in più, no? Sì, ho voluto far sposare queste due parole, appunto amore e insieme a memorabilia, memoria in realtà anche, e inventandomi questa parola nuova, che spero abbia la stessa fortuna di Petaloso, proprio perché mi piaceva l'idea di sfidare anche un po' un titolo con una parola sola, evitare appunto i titoli lunghi che invece mi piacciono tanto. Ho appena detto il titolo della mia prima canzone, lunghissimo, ma cercare di condensare, ecco, l'idea di questo disco. È un disco di canzoni d'amore, di memorabilia, di cose straordinarie che insieme creano qualcosa che doveva essere nuovo rispetto al mio approccio poetico e alle cose che ho espresso fino ad ora attraverso la musica, ovviamente prevalentemente quella, insieme agli Yo-Yo Mondi. La bimba che sognava Maradona, cominciamo da qui, perché insomma la sì. memoria è presente. Sì, sì, beh, intanto perché io sono mezzo napoletano da parte di madre, per cui Napoli c'è più nei sogni, perché mamma è nata poi nell'isola di Favignana, davanti a Trapani, e non ha mai vissuto a Napoli, per cui non è mai vissuta a Napoli, però nei suoi sogni, nei suoi ricordi c'era sempre Napoli, e mi è piaciuto insomma inserire delle immagini anche estremamente sognanti, anche da incubo, perché viene citata la Llorona, che è questa figura sì. tremenda della tradizione sudamericana, Maradona, che insomma in qualche modo tutti l'abbiamo amato, non soltanto per le sue abilità calcistiche, ma per la sua arte e la sua poetica, anche chi non ama il calcio, ecco, voglio dire, comunque è stato incuriosito dal suo personaggio. E l'idea appunto di riportare un clima di festa, di banda, difatti è un brano dove arrangiato con una sezione fiati e poco altro, ecco, questo è. Vi invito ad andare a cercare sui vari canali YouTube il video di questa canzone realizzato dall'artista grafico, che è anche l'autore della copertina, Ivano Antonazzo. Ascolta, è un disco, lo dicevamo, no? Amorabilia, amore e memorabilia, c'è una nuova poetica, diciamo, comunque un lato tuo che magari non era uscito così tanto nei 25, se non sbaglio, dischi con gli Yo-Yo Mundi, no? Che, insomma, ecco, ce ne sono molti di dischi, lo dicevamo prima, ecco, però c'è una canzone che appunto, parlando di memoria, forse ancora di più, memoria, voglio dire, popolare, memoria del passato, ecco, tu dici in questo tempo così inquieto, così distratto, bisogna ricordarci di ricordare. Sto parlando di Iaio e Fausto, che forse per chi insomma ricorda molte delle lotte del lungo 68, degli anni 70, insomma ritorneranno alla mente, ecco, c'è anche questo brano, e tra l'altro qui lo acceno e poi ti cedo la parola, ti accompagnano sì. Susanna Roncallo e Simona Colonna. Sì, quattro brani del disco li ho realizzati insieme a queste due straordinarie musiciste, al violoncello e alla chitarra, e uno di questi brani è la riproposta di un brano che avevo scritto per uno spettacolo teatrale, appunto dedicato a questi due ragazzi assassinati da un commando neofascista nel 78, ragazzi del Leoncavallo, che stavano facendo un'indagine per denunciare i collegamenti tra lo spaccio di stupefacenti e l'estrema destra milanese, e ho voluto raccontare la loro storia alla mia maniera, facendoli in qualche modo rivivere, facendogli cantare una canzone di Claudio Lolli, ho visto anche degli Zingari Felici, e raccontare così le sensazioni che aveva quel Paolo bambino, nel ragazzino nel 78, quando ho scoperto questa ennesima tragica notizia, no? E poi perché mi piace cantare le gesta di chi nonostante tutto si è schierato, ci ha messo la faccia, si è scelto la parte, come fecero i partigiani, dalla parte giusta della storia. Vabbè, ricordarlo in questi mesi, in queste settimane, è fondamentale. Andiamoci ad ascoltare Iaio e Fausto e poi rientriamo qui insieme a te. Scrivere quello che sento. Iaio guarda Fausto, c'è del sangue sull'asfalto, due sagome in un unico lamento. Fausto tocca Iaio, ti ricordi la canzone? quella degli zingari felici. Iaio ascolta Fausto con il fiato che ti resta, canta per la lotta, per gli amici caduti sul nascere della primavera, lo schiaffo nel buio, tarantola nera, due fiori gemelli perduti nell'ombra, la mano che strappa, la voce che affonda. Giovani, non ti fa invecchiare, ma morire ammazzati non fa dimenticare. Lai la la la lai, lai la la la lai, lai la la la la la lai la la. Fausto disse a Iaio, non ci sono più parole, quietare questo mio tormento. Iaio, senti Fausto, c'è qualcuno che ci chiama dall'abisso che ci avvolge lento. Caduti sul nascere della primavera, lo schiaffo nel buio, tarantola nera, due fiori gemelli perduti nell'ombra, la mano che uccide, la voce che adombra. Morire da giovani non ti fa invecchiare, ma morire ammazzati non fa ci sentiamo, due lacrime che scendono piano piano. E questa era Iaio e Fausto, ci accompagna Paolo Enrico Archetti Maestri per presentarci il suo nuovo disco, il primo da solista, ovviamente con gli Yo-Yo Mundi si continua, lo so bene, è bene ricordarlo, avete fatto anche recentemente un paio di dischi, insomma seguite gli Yo-Yo Mundi. Tra l'altro in questi giorni so che sei praticamente per un blitz, per così dire, in Ucraina per partecipare a una bellissima iniziativa, suonerai un concerto per la pace portando aiuti ad un ospedale nel centro dell'Ucraina, in una città che ha sofferto molto in questi anni, Ivano Frankivsk. Insomma è un'altra, un altro esempio, no, di quello che tu fai, Paolo, che non è solo delle canzoni, che già di per sé sarebbe sufficiente, ma è un impegno, un engagement che è civile, politico, culturale, sociale. Sì, la partecipazione è importante, per me è importante, scrivo canzoni e tutta la storia degli Yo-Yo ha questa energia che è quella di far parte di un mondo e di non smettere mai di intrecciare le esperienze, i sogni e le denunce, le urgenze. La musica per me, che vengo dagli anni che abbiamo già citato, è anche questo, ecco. Certo, sono canzoni d'amore e anche questo, come diceva un altro cantautore, è amore. È un modo per esserci, per partecipare, per andare a mettere il dito nelle sacche di resistenza e anche nelle nostre incongruenze, che sono tante, ecco. E, non so cosa proverò a suonare per per questo concerto della pace, ma so che ci voglio essere, ecco. No, è importantissime. Tra l'altro, insomma, pochi giorni fa, come i nostri ascoltatori sanno, c'è stato un anniversario importante, quello dell'80esimo della liberazione dal nazifascismo. Insomma, l'abbiamo anche appena detto, Paolo, tu, gli Yo-Yo Mundi, insomma, è da sempre che vi impegnate per la difesa della memoria e la promozione di una nuova memoria antifascista, dell'esperienza partigiana. Ecco, fin dai tempi, insomma, il lontano ormai 1995, no? La partecipazione alla raccolta materiale resistente, sì. Recentemente 2023 lo spettacolo Partigiani Sempre insieme a Massimo Carlotto e Maurizio Camardi, insomma, libri, reading, recupero di brani storici, insomma. Ma la domanda che ti volevo fare su tutto questo, collegandomi a quello che ci spiegavi poc'anzi, è per reagire a questo stato di cose, chi fa arte come te, come voi, gli Yo-Yo Mundi intendo, cosa può fare di più? E soprattutto anche per rivolgersi anche a chi la pensa più o meno non come noi, e come rapportarsi alle nuove generazioni, visto che ormai, insomma, sono passati tanti anni dal 1945 e si vedono, no, quello che leggiamo sui giornali, la distanza dei giovani dalla memoria di quell'esperienza, dai valori antifascisti, oppure no, insomma, c'è un grande dibattito al riguardo. Ecco, cosa fare e come la vedi tu da questo punto di vista? Non credete a quello che scrivono i giornali, direi, perché noi incontriamo un sacco di giovani che hanno dei valori che sono molto molto più avanti di noi e si dimostrano soprattutto sui temi ambientali, ecco, sia ben chiaro, ma molto molto più avanti di noi e molto concreti. Per cui io, se devo buttare giù dalla torre, butto giù quelli che hanno una certa qualità e che vogliono armarsi e fare la guerra, ecco, perché come diceva Gino Strada, io non sono pacifista, ma sono contro la guerra. E cosa si può fare? Possiamo fare tantissime cose, bisogna farle con sincerità, anche sbagliando, con onestà, con pulizia morale, anche sbagliando, perché può capitare, no? Per cui trasmettere le emozioni, trasmettere le storie, e soprattutto questo lo dico perché noi, dico sempre, noi abbiamo un approccio culturale, ma la C che sta davanti alla cultura nel nostro caso è minuscola, non vogliamo né insegnare niente a nessuno, ecco, ci mancherebbe ancora. Però l'importante è non stare in superficie, non essere superficiali, ma andare a mettere il proprio naso e anche gran parte del proprio corpo in profondità, in modo tale da non smettere mai di essere curiosi, ecco, imparare qualcosa di più. E questo probabilmente è la cosa che può far cambiare un po'. Alcune cose storte di questo mondo, ecco. Ascolta, un'ultima domanda prima di ascoltarci la terza canzone dal tuo nuovo album. Da poche settimane, tra l'altro, è uscito Canzoni di Fuga e Speranza, un doppio CD più libro pubblicato da Nota, che è il primo tributo agli oltre ormai 30 anni di carriera degli Yo-Yo Mundi, no? 24 canzoni degli Yo-Yo reinterpretate da tantissimi artisti della scena indipendente, non c'è anche addirittura Ricky Gianco insieme a Lalli, per nominarne uno. Ecco, insomma, per la prima volta, devo dire la verità, un tributo arriva ad un gruppo ancora in piena attività, il che è meraviglioso. E insomma, quello che ti volevo domandare è: cosa si prova a riascoltare le vostre canzoni in vesti così inedite? E dall'altra, insomma, come approcciarsi anche ad una cover? Qual è il tuo punto di vista, visto che, insomma, anche tu hai cantato canzoni di altri nella tua lunga carriera? Sì, allora, intanto siamo in radio e magari fossimo in TV si potrebbe vedere, ma mi sono emozionato e c'ho i brividi pensando a questo grande regalo che ci è stato fatto. Poi rispondo alla tua domanda, che poi sono due domande. Allora, la prima è che questo noi non l'abbiamo voluto chiamare tributo, ma anche perché, insomma, come hai detto giustamente, stiamo benissimo tutti, siamo ancora insieme e dopo 36 anni di carriera abbiamo fatto il compleanno il 5 marzo, i 36. devo dire che è un atto d'amore, è davvero un atto d'amore, lo sentiamo in ogni virgola, in ogni nota che è stata suonata in questo disco, cioè i partecipanti, tutti gli artisti, sono quasi un centinaio di persone per 24 canzoni, cioè ci hanno messo dell'amore nei confronti delle nostre canzoni, qualcuno le ha smontate, le ha ricostruite, qualcun altro è rimasto un po' più fedele alla struttura, ma ha utilizzato completamente altri suoni, altre idee. Questo ha fatto sì che noi abbiamo ascoltato le nostre canzoni da un altro punto di vista, realizzate da un altro punto di vista, le abbiamo sentite nuove, le abbiamo sentite così, vive, assolutamente vive. E l'altra risposta invece è che è uguale, anche noi quando abbiamo fatto delle cover, abbiamo reinterpretato brani altrui, l'abbiamo fatto come atto d'amore, perché questo è. Dispiace quando le cover vengono utilizzate per fare moneta, ecco. Sì. No, quello un po', poi anche in questo caso io rispetto davvero tutti i colleghi, qualunque cosa facciano, non voglio essere, però ecco, diciamo che appartengo a un'altra idea, a un'altra scuola, ecco. Sì. se devo realizzare una canzone perché amo quella canzone, amo quell'artista, e allora glielo dimostro in qualche modo, magari anche facendola male, non voglio dire che sempre le abbiamo indovinate tutte, anche noi qualche scivolone l'abbiamo fatto, no? Per cui insomma, sai, c'era la canzone di Ron, diceva raccontare dei successi e dei fischi non parlare mai, invece noi siamo anche in questo caso di un'altra scuola, ogni tanto raccontiamo anche delle cose che non hanno preso il verso giusto, ecco, bisogna provare ad essere sinceri, ecco. E per salutare ci andiamo ad ascoltarci, Paolo, una canzone che si intitola L'amore trova sempre la sua strada. Direi che questo titolo è un manifesto di speranza in fin dei conti, tanto a livello individuale come a livello collettivo, no? Sì. Io negli ultimi anni ho passato dei momenti difficili e ad un certo punto per questo disco, per questa canzone e per la canzone delle distanze che chiude l'album, ho aperto un po' l'armadio dei miei tormenti e ho provato a tirare fuori, a mettere insieme il mio disperato grido d'amore e contemporaneamente i miei enormi sbagli, e sono venute fuori queste canzoni. Ma adesso qui non vorrei mettere tristezza agli ascoltatori. In questa canzone è pure citato il mio animale domestico, il mio cane, che si chiama Euripide. Però in realtà Euripide è un animale immaginario, è il mio cane immaginario, che mi è stato regalato da un'amica che voleva regalarmi anche il suo coniglio immaginario, però in realtà mi ha detto, perché lei non lo poteva più tenere, e mi ha regalato Euripide e io l'ho messo in una canzone. Non so se si è capito qualcosa. Si è capito. Ma adesso tutti lo capiranno meglio ascoltando il tuo brano. Paolo, grazie davvero di essere stato con noi e lunga vita a tutti i tuoi progetti e agli Yo-Yo Mondi. Sempre. Ciao, grazie. Il giorno strappa gli occhi alla luna. Si perdono gli stracci nella tosse del vento. Lecca la mia mano, placa il mio tormento, Euripide si ferma, annusa abbaia. L'amore trova sempre la sua strada, l'amore trova sempre la sua strada. L'amore trova sempre la sua strada, accada quel che accada. costellazioni di fili d'erba si sciolgono nell'acqua, rimetti al posto suo l'anima del santo che sulla schiena dell'arcobaleno scivola sangue caldo, acchiappalo al volo prima che cada. L'amore trova sempre la sua strada, l'amore trova sempre la sua strada, l'amore trova sempre la sua strada. Accada quel che accada e vada come vada. L'amore trova sempre la sua strada, il terzo brano che vi proponiamo di Paolo Enrico Archetti Maestri, il suo primo disco solista, come ci ha raccontato Amorabilia. Banzo, noi nella restante parte di questo Zibaldone del 2 maggio andiamo un po' a scovare un po' di cose che ci sono, diciamo, nei dischi, nella lunghissima traiettoria degli Yo-Yo Mundi. Beh, guarda Steven, abbiamo scelto la parola amore nel titolo, questo brano conteneva la parola amore e il prossimo a sua volta contiene la parola amore, forse in una specie di contrasto, perché dice l'amore trova sempre la sua strada e questo invece si intitola amore non ne avremo, quindi c'è una dialettica tra i brani che abbiamo scelto. Questo brano diede il titolo alla raccolta pubblicata dai dischi del Manifesto dedicata alla figura di Peppino Impastato nel trentennale della sua morte, per meglio dire della sua uccisione ovviamente, sì. Fu spacciato inizialmente per un suicidio nonostante le circostanze assolutamente incredibili. Per un suicidio ovviamente si sapeva subito che non lo era. Ricordiamo Banzo, ricordiamo a tutti che insomma magari ce l'avranno anche nella mente, negli occhi, i 100 passi, film che portò alla ribalta nazionale la storia di Peppino Impastato ormai una ventina buona di anni fa. Giustissima precisazione, ma tornando alla raccolta Amore non ne avremo, era appunto un tributo a Peppino Impastato con gli Yo-Yo Mundi che hanno l'onore e l'onere di comporre la title track, che è un libero adattamento di una poesia dello stesso Impastato, Nubi di fiato rappreso. E dell'Internazionale, quindi la sentirete adesso, ascoltiamocela perché insomma ci mostra anche il grande impegno, l'engagement, no, che sempre hanno avuto gli Yo-Yo Mundi e l'ospite di questa puntata di oggi, Paolo Enrico Archetti Maestri. Amore non ne avremo, 2008, eccola qui. Pioggia, dopo la pioggia al sereno, conto i colori dell'arcobaleno. Maggio, che sfoggi mille colori, solo ora scopro gli errori di quest'amore. Quante emozioni ho provato per lei. Wow. quante poesie, quante canzoni ho dedicato a lei. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito e una fede ci è nata nel cuore. Noi non siamo più nell'officina, entro terra, nei campi, al mare, la plebe è sempre all'ordina, senza ideale in cui sperare. Che ritorni da me, Philip Marlowe, ti prego, fallo a cercare tra ombre e ricordi, un frusciare di gonne, il nome di una donna, una festa, uno sguardo, due occhi rugiada, un sorriso al bel viso, il tuo nome fantastico, infelice acrostico, amore non ne avremo. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito e una fede ci è nata nel cuore. Un gran stentato al sol fiammante, innanzi a noi glorioso va, noi vogliamo per esso al fine infrante le catene della libertà. Che bella questa versione, questo mélange, no? Banzo tra l'internazionale e appunto la poesia di Peppino Impastato. Beh sì, ed è perfettamente riuscita. D'altronde poi Peppino Impastato era un comunista, quindi diciamo che sicuramente a livello ideologico non c'è stato nessuno snaturamento, ma una certa continuità che però c'è anche a livello musicale, e in questo caso concreto era il dettaglio più importante. Eh sì, rimaniamo in quegli anni, era il 2008, Amore non ne avremo. Adesso facciamo un salto indietro di 2 anni al 2006, perché troviamo un'altra collaborazione. In questo caso non è un mélange, però sì, è proprio una collaborazione tra gli Yo-Yo Mundi e degli artisti che io non mi sarei mai aspettato, e pur conoscendo gli Yo-Yo Mundi non sapevo che avessero fatto questa cosa. E a pelle direi, caspita, insomma, scettico, ecco, sarebbe forse un aggettivo per rimanere veramente proprio moderato. Tu che ne dici? Incredulità, sbalordimento. ecco, mettiamola con chi, così. Ma con chi hanno collaborato? Perché cioè, a questo punto dice chi hanno collaborato con Goebbels? No. No, vabbè, caspita. No, vabbè, l'ho buttato in cacciara, Steve, scusa. No, hanno collaborato con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone. I nomi da soli non dicono molto, ma erano membri degli Eiffel 65. Quindi ecco, sì, effettivamente qui si capisce perché c'è dello stupore, perché sì, sono entrambi piemontesi, Yo-Yo Mundi e Eiffel 65, però diciamo che forse a livello di immaginario e di suono le similitudini si fermano lì. Esattamente. Però è anche il bello di questi accostamenti arditi, diciamo. Eh sì, e mandiamo in onda questo brano che si intitola L'ultimo testimone, da un EP omonimo che, insomma, ovviamente lo facciamo anche perché sono passati pochi giorni dall'80esimo della liberazione al nazifascismo, a cui abbiamo dedicato la scorsa puntata di Zibaldone, ed è giusto e importante ricordare appunto l'impegno degli Yo-Yo Mundi, gruppo, lo ricordiamo, di Acqui Terme, nella memoria dell'esperienza della resistenza, no? Che è stata una costante lungo tutta la loro carriera. Vent'anni fa, appunto nel 2006, hanno pubblicato questo brano, L'ultimo testimone, che è ispirato, Banzo, a un testo che io credo di fondamentale lettura, Le lettere di condannati a morte della Resistenza italiana. Sì, è liberamente ispirato ed è tratto da uno spettacolo, La banda Tom e altre storie partigiane, quindi presenta una lettera accurata di un uomo che in attesa della morte, prima che il suo destino si compia, vuole passare il testimone a quelli che verranno, che purtroppo nel contesto del condannati a morte è immagino una situazione tragicamente comune, quella di voler lasciare un'eredità a quelli che rimarranno perché vieni strappato alla vita in circostanze ingiuste e drammatiche. Eh sì, il brano in realtà gli Uomini l'avevano fatto in una versione, diciamo, tradizionale per quello che è il loro stile di musica, ma poi l'anno successivo, il 2006 appunto, l'hanno riproposto in questa versione manipolata, no, dagli Eiffel 65, e bisogna dire la verità, lo sentirete tra poco, non c'è nessuna traccia di Kitsch, no, in questo remix, anzi il contributo elettronico serve in fin dei conti a stagliare il testo in modo ancora più, possiamo dirlo, Banzo, drammatico rispetto alla versione originale. I'm blue and da budai. No, scusa, sto continuando a buttarla in cacciara, però veramente è difficile da processare una collaborazione di questo tipo, però un applauso a tutti per l'apertura mentale, veramente. Andiamocela a sentire allora questa versione dell'ultimo testimone. Suo seno non avrà miei figli da allattare, ho scritto alle sue labbra che non avranno i miei baci da colorare, ho scritto ai suoi occhi che non riesco già più a ricordare, restituiti in tutta la loro luminosa bellezza, quando la benda bianca sui miei mi segnerà una nuova carezza, prima che questa notte eterna, tanto violenta quanto materna, dopo questi spari mi separi da lei. Ecco, ti scrivo dal buio profondo, con l'inchiostro della notte in cui mi nascondo. Ecco, ti scrivo dal buio profondo, con l'inchiostro della notte, questo tempo tremendo. molto particolare questa versione, l'ultimo testimone, gli Yo-Yo Mundi, la voce di Paolo Enrico Archetti Maestri, che è stato nostro ospite quest'oggi, e l'avete sentiti, gli Eiffel 65, chi l'avrebbe mai detto? Banzo, siamo alla fine dello Zibaldone di quest'oggi, prima puntata di maggio, e abbiamo una canzone che è un omaggio agli Yo-Yo Mundi in fin dei conti. La interpreta un grande amico di Zibaldone, Alessio Lega, accompagnato come sempre da Rocco Marchi e Guido Baldoni. Il brano è Chi ha portato quei fiori per Maracagol, scritto da Paolo Enrico Archetti Maestri. Comunque si dice Cagol. Comunque si dice Cagol perché lei è di Sopramonte, era di Sopramonte vicino Trento, e il cognome Cagol si legge Cagol, non Cagol. Sono rimasto senza parole, chiedo scusa. No, vabbè, ma già che c'eravamo, dico, te lo dico. Ogni tanto qualcosa che succede, purtroppo ho sbagliato. Però ecco, è poco musicale letto alla trentina, quindi Cagol forse funziona meglio per cantarlo. Va bene, poi il programma, è il bello della diretta. Comunque, un brano scritto da Paolo Enrico Archetti Maestri nel 1995 per ricordare tutta una serie di anniversari che si rincorrono degli eventi di vent'anni prima, cioè del 1975, perché all'epoca Archetti Maestri era giovane e viveva a pochi chilometri dal luogo dove avvennero dei fatti tragici, cioè quelli successivi al sequestro dell'imprenditore Vittorio Vallarino Garcia, che portarono alla morte di Giovanni D'Astolfo, un carabiniere, e della brigatista Maracagol. Ecco, scusate, nome di battaglia, perché il nome autentico era Margherita. È incredibile, quando pronunci un nome per tutta la vita, poi scopri nella situazione più erronea che l'hai sempre pronunciato male. Comunque, questo, che ricordiamolo, ricordiamolo che era la moglie di Renato Curcio. Renato Curcioschi, scusami. comunque l'obiettivo di Archetti Maestri quando scrisse il brano nel 95 era quello di fare sì che non si dimenticassero tutte le vittime, consapevoli e inconsapevoli, del terrorismo. Alessio Lega, come lo sentirete, fa proprio la canzone accompagnato dai fidi Rocco Marchi e Guido Baldoni, e questo brano, uscito nel 2025, è contenuto nella raccolta Canzoni di fuga e speranza, di cui abbiamo parlato anche nell'intervista con Paolo, che è questo omaggio, non tributo, lui non ama la parola tributo, appunto agli Yo-Yo Mundi, alle loro tantissime canzoni di questi più di tre decenni. Noi siamo arrivati alla fine dello Zibaldone, ci ritroviamo la prossima settimana, buon venerdì sera, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 19.54 diceva tutti i venerdì. Comunque, a livello di grandi duetti, aspettiamo a questo punto Orietta Berti e Ina Paez, ma anche Albano e Aphex Twin. Vabbè, dai, bye bye, ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti, Alessio Lega. Anche quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per Maracagol. Erano rossi, erano rose rosse. E le ha lasciate là solo per ricordare. Bisogna più che il sangue scorre in vano. Anche quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per te. Erano rossi, di rosso desiderio. Sulla collina riecheggiano gli spari di una giustizia che non ci appartiene, e di collina in collina soffia un vento pesante, tutto sembra distante, ma tu sei vicina. Quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per Maracagol, erano rossi, erano rose rosse. Un attimo prima non c'erano, l'attimo dopo eccole là. Sono come apparse, è stato il sole a scoprirle. Anche quest'anno qualcuno ha portato dei fiori affinché fosse possibile non dimenticare. La storia e la tragedia di quell'Italia tradita sulla collina riecheggiano gli spari di una giustizia non ci appartiene e di collina in collina soffia un vento pesante, tutto sembra distante, ma tu sei vicina. Sulla collina una battaglia senza vinti né vincitori, e di collina in collina un vento incostante, tutto sembra distante, ma tu sei vicina.